Delirio calabrese a parte, e tra un attimo ci arriviamo. La giornata è stata segnata dall'annuncio di un altro vaccino in fase 3. Si tratta di quello di Moderna, che nelle dichiarazioni della casa produttrice è più efficace, ha meno problemi di trasporto. Altri sarebbero addirittura d'arrivo. Il resto sono ancora discussioni su zone rosse, arancioni, gialle e timidi segnali di contenimento del virus. La crescita dei ricoveri si attesta sulle 500 unità, la crescita dei ricoveri in rianimazione di 70, numero più basso rispetto ai giorni scorsi. Il governo nel frattempo ha varato la manovra, che prevede tra l'altro un fondo da 3 miliardi e mezzo per le assunzioni nella pubblica amministrazione fino al 2033 e nuovi soldi per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, ma i sindacati minacciano lo sciopero perché dicono che i soldi non bastano. Nubi si addensano sul Fondo Europeo per il rilancio post-Covid. Polonia e Ungheria stanno bloccando il bilancio europeo in opposizione alle condizionalità sullo Stato di diritto contenute nel pacchetto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti di martedì 17 novembre. Buongiorno, buongiorno. Credo che ci siano case cinematografiche, piattaforme di streaming alla ricerca dello sceneggiatore che ha scritto la vicenda calabrese, perché veramente sta assumendo dei contorni pazzeschi. Pietro La Corte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione come sempre Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. C'è tutto, c'è il generale dei carabinieri in pensione che racconta di essere stato drogato durante un'intervista, c'è il manager della sanità ma anche politico trombato alle ultime elezioni, chi c'è ancora? C'è il grande rettore universitario che entra in scena, c'è il medico attivista, c'è proprio tutto. Ha indagato il rettore, l'ex rettore. E vabbè, quanta Italia, pure troppa Italia in questa vicenda. Zuccatelli, ieri intervistato da Rai News 24, che ieri ha annunciato che si sarebbe dimesso, poi ha specificato: non è che mi dimetto, perché in realtà non mi hanno mai nominato. Io sono stato nominato sabato scorso, non questo, quello di 8 giorni fa, e per poter essere operativo avrei avuto bisogno del decreto notificato di nomina, che non è arrivato, quindi diciamo che è una dimissione relativa a una disponibilità, diciamo che avevo dato a suo tempo la disponibilità al ministro Speranza, che aveva portato la proposta in Consiglio dei Ministri, era stata approvata e poi è successo tutto quello che è successo. E poi dice Zuccatelli, aggiunge: non sono una macchietta. Poter avere la possibilità di far vedere perlomeno ai calabresi e ai professionisti calabresi, che non tutti mi conoscono e men che meno il 1.900.000 abitanti della Calabria mi conosce, Ma che io non sono una macchietta, io sono un professionista che ha 50 anni di esperienza e che si è trovato suo malgrado per aver fatto una gaffe, per aver sbagliato oggettivamente, però voglio dire, questo è il quadro. Oh, poi mi ricorda già qualche ascoltatore al 349-238-6666 che... pensando a Cotticelli, no? Il generale dei carabinieri, quell'intervista prima a Titolo Quinto su Rai 3 e poi quella successiva, mi ricorda qualche ascoltatore, certo i generali dei carabinieri quando vanno in pensione tra Pappalardo e Cotticelli. Zuccatelli che dice ora torno a leggere, sono un pensionato. E poi cosa succede? Che il governo nomina il rettore, l'ex rettore della Sapienza, il professor Gaudio, che è un medico ovviamente, è l'ex rettore della Sapienza di Roma ed è di Cosenza e calabrese. Cosa succede? Che però si apprende nell'arco della giornata che Gaudio è indagato. È indagato per cosa? È sospettato di aver di essere entrato in un giro di passaggi, in un'inchiesta, nel troncone di un'inchiesta. Questa inchiesta è per il passaggio a professore ordinario, un po' sospetto, della figlia dell'ex procuratore di Catania. Chi indaga? La procura di Catania. Pare che però per la posizione di Gaudio si vada verso l'archiviazione. Con Gino Strada che interviene ieri sera e dice leggo di un tandem, di un'accoppiata tra me e Gaudio, ma a me il governo non ha detto nulla. Guardate che io non riesco a crederci. Sentiamo il presidente della regione Spirlì, che poi sarà il nostro ospite alle 8.45. Pur permanendo il rifiuto dello strumento del commissariamento da parte nostra, perché noi speriamo sempre che si possa ritornare ad un'amministrazione ordinaria della sanità, e cioè con un assessore, con i dipartimenti, però è vero che a me piace oggi pensare che proprio perché figlio di questa terra, il rettore Gaudio, noi possiamo immaginarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria. 349-238-6666 per le vostre voci, sms, messaggi WhatsApp, WhatsApp audio, tutto quello che volete, come sempre. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook se ci volete seguire. Chiosa finale a tutta questa vicenda, perché così non lasciamo fuori nessuno. L'abbiamo detto del governo e della confusione, del caos che ha fatto su questa vicenda calabrese. Però anche l'opposizione non è messa bene. Allora, sono giorni che Spirlì, il presidente della regione, e il leader della Lega, Matteo Salvini, invocano un commissario che venga dalla Calabria. La Calabria ai calabresi. La Lega ha commissariato il partito in Calabria. E lo sapete di dov'è il commissario della Lega in Calabria? Di Bergamo. E vabbè, non si salva nessuno in questa vicenda, non si salva nessuno, e qua caliamo un po' di intensità musicale, però vale la pena sentire Bruno Risas che racconta così la sua terra. Donna Bondio passa al forno e salsiccia di maiale, Donna Bondio è mio nipote, lo dobbiamo sistemare, tra le sedie e le poltrone di un consiglio comunale. Tra le mani che si allisciano in un seggio elettorale, Donna Bondio negli inchini, nella schiena che si piega, Donna Bondio che alla fine è noi, che cazzo ce ne frega, Donna Bondio sono io, affacciato alla finestra, a guardare le macerie, a contare quel che resta, no. E un abbraccio a tutti i calabresi che il piano pandemico al momento, in tutto questo caos, ancora non ce l'hanno, ancora non ce l'hanno. Veniamo alle regioni, appunto. Regioni che ancora litigano, rosso, arancione, giallo. Si lamenta il presidente della regione Toscana, Giani. In pochi minuti sono passato da giallo, mi preparavo all'arancione e sono passato al rosso. Il problema è che quando con questo DPCM passi da un livello superiore a un livello inferiore ti ci vuole pochi minuti. Guardate il caso mio di venerdì, lavoravo sull'arancione a un'ordinanza venerdì mattina, alle 3:30 mi è stato con mia sorpresa comunicato che eravamo già in rosso. Il presidente delle Marche Acquaroli dice c'è una scelta schizofrenica. Schizofrenico perché noi abbiamo il dato dell'RT settimanale che ci viene trasmesso. La settimana antecedente alla scorsa il nostro RT, che appunto l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno trasmesso, era un RT intorno ad 1,01. Questo RT determina un andamento stabile dell'epidemia nella nostra regione. Poi la settimana successiva, e quindi noi ci siamo basati su un dato che ci era stato trasmesso, calcolato sui risultati che noi abbiamo trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità. Così Acquaroli, il presidente delle Marche. Si lamenta invece il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, ospite ieri di Quarta Repubblica, dice col passaggio dei poteri ad Arcuri le cose in realtà sono peggiorate. Nella primissima fase noi abbiamo avuto poteri speciali, non appena ci sono arrivati i finanziamenti abbiamo potuto nel giro di 7 giorni non fare i progetti ma consegnare il cantiere. E questo perché non si può fare ad Avezzano? Perché da maggio arriva il decreto legge rilancio, la palla non passava direttamente ai governatori ma al commissario Arcuri, che ha concluso le sue, come dire, approfondimenti, ricognizioni e confronto con le regioni soltanto a fine settembre. E noi solo il 30 settembre abbiamo potuto richiedere la delega, che è arrivata l'8 di ottobre. E questo per quanto riguarda le regioni, le zone arancioni, gialle, rosse. Poi c'è questa buona notizia del vaccino di Moderna, che però inizialmente andrà solamente agli Stati Uniti, che è un vaccino, sostiene l'azienda, efficace al 95%, è un vaccino che si potrà conservare anche in frigorifero, quindi non avrà quei problemi di catena del freddo dei quali abbiamo lungamente parlato nei giorni scorsi per il vaccino Pfizer-BioNTech. E questo ovviamente è un elemento positivo. E poi c'è tutto il capitolo economico. Il capitolo economico si compone di tanti elementi. Allora, il primo elemento è il fatto che Polonia e Ungheria, e questa forse è la notizia del giorno, quella più importante, quella che apre le trattative all'interno dell'Unione Europea e le apre in maniera dura, che Polonia e Ungheria hanno deciso per il momento di mettere il veto al bilancio europeo. Qual è il tema di fondo? Il tema di fondo è che vorrebbero questi due paesi che le clausole sullo Stato di diritto, le cosiddette clausole sullo Stato di diritto, ossia quelle legate alla situazione della legalità, alla situazione del diritto all'interno dei paesi, fossero tolte dalla possibilità di accedere al recovery fund, per quanto, se vi ricordate, erano delle clausole piuttosto blande. L'altro fronte economico è l'approvazione ieri da parte dell'esecutivo della manovra, alla quale manovra, l'approvazione della manovra, è seguito l'incontro con i sindacati, e qua c'è stato uno scontro, non uno scontro forse, però una tensione abbastanza forte. Su quale tema? Sul tema del pubblico impiego. Ora io vi prendo al Sole 24 Ore di oggi, il quale Sole 24 Ore ci fa sapere che nel giro dei prossimi anni, naturalmente non sono 10 miliardi subito, però arriveranno 10 miliardi per i dipendenti pubblici, 3 miliardi e mezzo per nuove assunzioni entro il 2033 e altri 400 milioni che si aggiungono a 6,7 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Va bene. Ai sindacati non sta bene, dicono non ci siamo. E i sindacati del pubblico impiego dicono siamo pronti per questo a scioperare. Tra l'altro mettendo in atto uno scontro, possiamo sentire il segretario della UIL Bombardieri, con la ministra Dadone. Non abbiamo trovato risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, non risorse sufficienti. Mi permetta di fare una precisazione, abbiamo letto una dichiarazione, un'agenzia della ministra Dadone, che dice che lei non si piega ad intimidazioni. Ora non sappiamo se quella dichiarazione sia stata fatta in base alla discussione, alla proclamazione di un eventuale sciopero generale dei dipendenti pubblici. Però la prego di spiegare alla ministra che l'esercizio del diritto di sciopero non è una minaccia. Così i sindacati del pubblico impiego, mentre invece sul fronte dei ristori, però facciamo una cosa, adesso andiamo al traffico, poi ci arriviamo, sul fronte dei ristori c'è la preoccupazione di artigiani, di ristoratori, di esercenti in genere, di negozianti, andiamo al traffico e poi sentiamo una voce anche su questo, perché tra l'altro ieri è stata una giornata particolare per queste categorie, tra un attimo. Mattino. Che poi la questione fondi europei è strettamente legata in termini di bilancio pubblico anche alla questione dei ristori. Come sapete, per fare il decreto ristori ter servirà un altro scostamento di bilancio, altro deficit per 20 miliardi, ormai lo si è detto lungamente. Dice Confartigianato, con i codici Ateco svuoti il mare con il secchiello. I codici Ateco sono quei codici che identificano singoli settori di attività. Sentiamo Fumagalli. Noi pensiamo davvero che non si debba più tentare di correre dietro alla realtà attraverso i codici Ateco. Ci si è provato, abbiamo anche noi poi suggerito quali andassero allargati, quali no, ma è davvero come svuotare il mare con un secchiello. In una giornata, quella di ieri, care ascoltatrici, cari ascoltatori, se siete lavoratori autonomi, se siete commercianti, ristoratori, imprenditori, lo sapete perfettamente, è stata una giornata di scadenze fiscali pesante. Erano previsti 177 adempimenti nel complesso, con una differenziazione tra zone rosse, arancioni, gialle, che lo sapete meglio di me. E va bene, si fa per dire, facciamo una puntata all'estero, va. E ormai lo sapete, introdotta come sempre dai Sex Pistols, la nostra amica Liliana Faccioli Pintozzi, corrispondente da Londra di Sky TG24. Liliana, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno, come stai? Benissimo. Allora, la Francia ha annunciato ieri di aver scavallato, sostiene di aver scavallato, e anche la Gran Bretagna sta dando segnali di questo tipo, mi sembra di capire, no? Lo stesso Johnson, un po' di fiducia, diciamo, lo stesso Johnson isolato ieri, c'è questa foto nella quale già con i suoi capelli sembra un pulcino bagnato, un po' un pulcino bagnato, è in isolamento nonostante il Covid l'abbia già avuto, e ha detto, tutto sommato ne stiamo per uscire. Che segnali arrivano, Liliana? È un po' contrastante. Allora, Johnson molto fiducioso, d'altra parte, no? Il suo personaggio ha fatto dell'ottimismo un po' una cifra. Poi ieri pomeriggio invece una doccia un po' fredda dal ministro della salute Hancock, che ha detto sì, il lockdown dovrebbe finire il 2 dicembre, ma non siamo così sicuri, vediamo come va. In realtà, va detto, i dati sembrano, ci raccontano una curva che si sta un po' appiattendo. Rimaniamo sopra i 20.000 casi al giorno, quindi c'è ancora una situazione preoccupante, come dire, però non, probabilmente la seconda ondata, stiamo arrivando al picco, ecco. E guardiamo tutti al 2 dicembre per capire se questo lockdown verrà o meno chiuso. Rimarremo in fasi, in una zona a fasi, come in Italia, no? Le tre categorie, regioni gialle. Ma anche voi avete il semaforo, Liliana? No, noi abbiamo 1, 2 e 3, che è un po' meno intuitivo, però ecco, l'idea era quella all'inizio, poi siamo andati in lockdown nazionale. Probabilmente da dicembre si tornerà a un sistema in tre fasi, vedremo quanto duro. Comunque, come in Italia, Simone, priorità scuole che devono rimanere aperte e... Non proprio come in Italia, diciamo, Liliana. Il tentativo anche qua è quello, poi vengono... Da voi c'è più DAD che non qui. E attività produttive, si cerca di rimanere, di lasciare aperte qui le fabbriche. quelle che riescono, come dire. Ascolta Liana, sulle scuole, la decisione della Gran Bretagna, tra l'altro con parole citate ieri anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, in un'intervista al Corriere della Sera, cita proprio le parole della Gran Bretagna, diceva il governo inglese ha detto lasciamo aperto perché dobbiamo, questo serve soprattutto per gli studenti che sono più in difficoltà, che hanno più problemi. Su quel fronte non c'è mai stata discussione, nemmeno tra, non so se ci sia lo stesso dibattito tra virologi, infettivologi e via dicendo a livello come ce l'abbiamo noi, però non c'è mai stato dibattito sull'apertura o chiusura delle scuole, Liliana. Tantissimo. No, c'è stato molto duro tra chi chiedeva di chiudere tutto, chi appunto come te diceva no, facciamo a seconda dell'età. Alla fine si è deciso di mantenere aperto perché il capo dei consulenti scientifici di Downing Street, con una famosa dichiarazione di settembre, disse il costo di chiudere le scuole sulla socialità e sulla vita dei ragazzi è più alto che non il costo del Covid. Quindi hanno deciso di fare così, ma sì, se ne è discusso moltissimo e se ne discute tuttora in realtà, anche perché abbiamo avuto centinaia di ragazzi per esempio in isolamento nei college universitari, delle città intere che hanno accusato gli universitari di aver riportato il Covid, un esempio su tutti Liverpool, no? Che è stata la prima città che è entrata in zona rossa, si chiamerebbe in Italia. In molti in città quando sono andata mi hanno detto è colpa degli universitari, sono tornati, ce l'hanno riportato e la situazione in città è andata fuori controllo. Però ciò nonostante si è deciso di tenere aperto il più possibile. Poi ovviamente Simone, ci sta il caso delle università che vengono, college che vengono chiusi, scuole che devono andare in quarantena, ovviamente a seconda di come avanza il contagio tra i ragazzi. E questo è il punto, però si è deciso appunto di lasciare aperto, mentre invece di ieri abbiamo qua dall'Italia, ve lo segnalo, la decisione della regione Basilicata che ha deciso anch'essa di chiudere le scuole, mentre invece per il momento a quanto pare l'Abruzzo tiene. Vedremo anche noi, perché anche noi stiamo aspettando l'inizio di dicembre, Liliana, qua per capire un po' come si muovono le cose. Oh, intanto grazie del racconto, grazie Liliana Faccioli Pintozzi, corrispondente di Sky TG24 da Londra. Liliana, alla prossima. Buona giornata. Ciao, alla prossima. Oh, prima di chiudere una piccola chicca si fa per dire, una chicca sonora, perché è stato un passaggio abbastanza divertente, devo dire la verità, perché ieri Bombardieri, il segretario generale della UIL, si è messo a fare di fatto lo streaming dell'incontro col presidente del Consiglio, o non si è capito bene cosa, però la realtà è che a un certo punto Conte lo richiama. Sentite. Noi non abbiamo un testo ufficiale, abbiamo i tanti testi che sono andati in giro attraverso... Scusi se la interrompo, lei è in diretta sulla sua pagina Facebook? Sì, Presidente, l'ho chiarito all'inizio perché... Io non l'ho sentita. Allora, glielo... c'erano i suoi... Non abbiamo nulla da ascoltare. Appunto. E saperlo che d'ora in poi, perché facciamo anche noi, possiamo fare in Presidenza una diretta streaming. Che d'ora in poi evitiamo di dirle cose brutali come ce le dovremmo dire. Va bene. Mancano 10 secondi alla chiusura. GR24, ci risentiamo subito dopo. C'è la rassegna stampa, parleremo di dipendenti pubblici e non solo, che ho visto che un po' vi siete scaldati su questo. A tra poco.